Colloquio, capitolo 29esimo di Mirice. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Sergio Baldelli a Roma, marzo 2008. Mirice di Giovanni Pascoli, capitolo 29esimo, colloquio. Brulli i pioppi nell'aria di viola sorgono sopra i lecci, sfavillando come oro. Sopra il tetto della scuola si sfrangia un orlo a fiocchi rosei, quando, lieve come un sospiro, entra. Poi sola, bianca, le mani al cuore ristà ansando. Gira gli occhi. Dov'è la famigliuola? E ha sui labbri il suo sorriso blando, ma piange. Oh sì, son quello, il tuo Giovanni, un po' mutato. Oh madre seppellita, che gli altri lasci oggi per me, parliamo. Io devo dirti cosa da molti anni chiusa dentro, e non piangere. La vita che tu mi desti, oh madre, tu, non l'amo. Non piangere. È uno sforzo così mesto viverla senza te, questa tua vita. Ad ogni gioia è tanto dolor questo subito ricordar te seppellita. Dai sogni, oh brevi, della gioia desto io mi ritrovo a piangere infinitamente con te. Morire, così presto. Partire, oh madre, come sei partita. Tu non dovevi, con quegli occhi in pianto, con quella bimba che parlava appena. Dovevi, o madre pia, dirlo a Dio padre che non potevi, e ti lasciasse, e intanto te la guarisse Dio quella tua vena che ci si ruppe nel tuo cuore, o madre. Non piangere, sarebbe così bello questo mondo dorato di mistero, sarebbe la tua vita come un sentiero con l'erba intatta, all'ombra dell'ornello. E nuova tu saresti anche all'amello, anche al frullo d'un passero ciarliero. Ma rasentando il muto cimitero ti fermeresti pallida al cancello. E io direi del sonno delle larve che sognano ali e delle siepi tetre c'hanno nel sonno grappoli di fiori. Pianger ti lascerei di ciò che sparve. Indi sorrideremo anche alle pietre bianche là tra cipressi e sicomori. Ma tu piangi come non ti vidi piangere mai nel dolce viso attento. Ma se lo so con che dolce lamento chiedevi al cielo e con che fiochi gridi che ti lasciasse. Quali madri nidi lasciano soli pigolare al vento? S'era per mamma t'avrei qui, lo sento, viva, lo so, perdonami, sorridi. Ma se lo so, fioccava senza fine, e tu tra i ceri, con la morte accanto, sentendo gli urli della tramontana, parlavi ancora delle due bambine, cui non potevi intanto cucire i piccoli abiti di lana. Ma sì, la vita mia, non piangere, ora non è poi tanto sola e tanto nera. Cantò la cinga allegra in su l'aurora, cantava a mezzodì la capinera. I canarini cantano la sera per la mia cena piccola e canora. Poi nell'orto vedessi a primavera come il ciclame e l'ulivella odora. I gerani vedrai messi al coperto dal gelo, qualche foglia ha la cedrina, ricordi? L'erba che piaceva a te. Sorridi a questo sbatter d'usci? È certo ida tua che sfaccenda oggi in cucina. E Maria prega oggi per me. Fine del capitolo 29esimo.